nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Eccoci, prima puntata del 2020. Buon anno, che vi porti tutte le cose che desiderate e soprattutto tutto che vi porti una buona gestione del tempo, perché il tempo è la cosa che ci fa stare bene o che ci mette stress. Come sapete, noi a nessuno è perfetta, e anche nella prima puntata del 2020 lo ricordiamo, il multitasking, cioè il fare troppe cose contemporaneamente, fa male. Allora, buoni propositi per l'anno nuovo: meno multitasking e più messaggi vocali alla nostra casella 800 28 12 12. Per il 2020, come per l'anno che è appena trascorso, aspettiamo i vostri suggerimenti, le vostre critiche e anche tanti commenti ai temi che trattiamo. 800 28 12 12. In questo clima di festa, in questa puntata, abbiamo pensato che potesse farvi comodo ascoltare un po' degli ospiti che ci sono venuti a trovare nei mesi scorsi. Ospiti, interviste, temi. Ecco, tra i temi che sicuramente nell'anno che è passato hanno suscitato molta partecipazione da parte vostra, c'è quello sollevato da Federico Vespa, sì, il figlio di Bruno Vespa, che ha voluto raccontare in un libro, L'anima del maiale, il male oscuro della mia generazione, ha voluto raccontare la sua personale lotta contro una forma strisciante di depressione che con la quale sin da ragazzino ha dovuto fare i conti. Riascoltiamo insieme Federico Vespa. Ciao Maria, eccoti, buona domenica a te. Eccoti. Allora, il cognome, come dire, sound familiar ai nostri ascoltatori, perché sì, Federico è figlio di uno dei giornalisti più famosi, Bruno Vespa, e uno dei motivi conflitto anche col mondo lo racconta nel libro di cui parliamo oggi, L'anima del maiale, il male oscuro della mia generazione, ed è libro scritto per PM. Federico, il male oscuro lo vogliamo raccontare, perché uno pensa che la depressione appartenga agli anziani, no? E invece tu nel tuo libro racconti che hai combattuto con questa sin da ragazzino. Io l'ho combattuta quando avevo 18, quasi 19 anni, perché un giorno poi di punto in bianco, devo dire senza avvisaglie particolari, ma proprio in una frazione di secondo, ho cominciato a sentirmi un po' come una campana di vetro. In una campana di vetro non riuscivo più a provare delle emozioni, e questa cosa è andata avanti per tanto tempo, e da me sottovalutata tra l'altro all'inizio, perché pensavo poi fosse qualcosa che potesse passare da sola, sai, insomma, quando sei 18-19 anni non ti rendi conto bene di quello che sta accadendo, e invece era qualcosa che andava combattuto da subito. Io ho aspettato 2 anni senza farlo, poi sono esploso, e quando mi sono accorto che non sentivo più nulla di quello che mi stava intorno, ho detto: abbiamo un problema. Ecco. C'erano stati dei segnali anche, diciamo, di tipo fisico, no? un sentirsi stretto alla gola. Sì. Lo vorrei raccontare. Come lo racconti tu molto bene in questo bellissimo libro, devo dire, scritto con grande sincerità, perché chi ci ascolta magari può dire: ah, ma caspita, è successo anche a me. Allora, è esattamente la sensazione che io ho provato da un momento all'altro, è stata proprio questa. Cioè, questo disturbo d'ansia molto forte, che poi io ho sofferto soprattutto d'ansia e panico, poi ovviamente anche di depressione, perché poi se tu hai l'ansia e il panico costante ti deprimi, no? Questo è ovvio. E avevo la sensazione di qualcosa che come se non riuscissi ad ingoiare, ed era appunto un nodo in gola fastidiosissimo che per tutto il giorno mi accompagnava, ed è rimasto costantemente dentro di me. E questo nodo in gola è una sensazione psicosomatica di grossa insoddisfazione, e provavo sia questo nodo in gola sia questa campana di vetro enorme tra me e il mondo esterno, e dopo 2 anni sono esploso. Quindi, se avete questo nodo in gola, cioè, se è una sensazione che può portare a quello, non c'è dubbio. Perché parli di un male generazionale? Perché io pensavo di essere particolarmente sfortunato, invece non lo sono stato, perché tanti miei coetanei hanno avuto disturbi da giovani che non dovevano avere, o che non è normale avere, insomma, quell'età, l'età in cui non dovresti pensare, dovresti solo gioire, e perché secondo me oggi molti di questi disturbi vengono anche perché facciamo un tipo di vita e viviamo in un certo tipo di società che certamente non ci aiuta, ecco, questo c'è pochi dubbi, e purtroppo ti dico che all'epoca, o meglio, anzi, in realtà questa è una cosa che ho scoperto recentemente, ma recentemente ho saputo che molte persone che conosco hanno avuto dei problemi simili ai miei a un'età, appunto 20 anni, in cui in realtà non dovrebbero esserci. Quindi è un po' un male della mia generazione, quella cresciuta pre-internet e post-internet. Federico, io immagino già quello che sta pensando la media dei nostri ascoltatori, ma come? Questo si chiama Vespa. Ha genitori famosi, un giornalista super affermato e anche, diciamo, molto benestante, una madre che ha avuto grandi successi professionali, magistrato di qualità, ma di che cosa si lamenta? Ecco, questo è proprio quello. Vedi, allora, se fosse vero quello che la gente dice, non sarebbe possibile che il 75% dei depressi sono ricchi. Perché il 75% dei depressi sono ricchi? Perché tantissimi personaggi famosi hanno sofferto molto di depressione, qualcuno si è anche morto, qualcuno si è anche ammazzato. Allora ragazzi, io credo che la gente debba capire che la depressione, l'ansia, il panico, ma in generale i disturbi mentali, non conoscono il conto corrente, non ti chiedono il conto corrente. Non è che vengono, che dicono scusi quanto guadagna lei, no, allora non vengo, vado da un altro. Cioè non funziona così, anzi purtroppo lo dico, più si ha tempo di pensare, più si è fortunati e quindi magari si lavora meno e più c'è il rischio che ti possano colpire. Ma ripeto, io dico che il 75% dei depressi è ricco perché anni fa lessi, mi andai a documentare, sì. Ed era proprio vero. Cioè che l'utilizzo degli psicofarmaci, delle terapie cognitivo comportamentali, analitiche, tutte quelle che ci sono, è in grandissimo uso tra le persone benestanti. Quindi evidentemente non c'è conto corrente che tenga in questa situazione. Nel tuo libro, L'anima del maiale, il male oscuro della mia generazione, tu racconti della diversa, diciamo, reazione che i tuoi genitori hanno avuto alla tua adolescenza, perché eri un adolescente complicato, non avevi voglia di studiare, sì. Molto conflittuale, no? Ecco, grande conflitto con tuo padre, tua madre che ti capiva di più. Sì, perché mio padre, sai, quando uno è a un padre così importante lo vede poco perché comunque quello fa un lavoro che lo... Beh, sì, Bruno Vespa è stato prima direttore del telegiornale, poi quando ha cominciato Porta a Porta registrava tutti i giorni, esatto, quindi esatto. Scriveva libri, quindi, esatto. Scrive libri, quindi un uomo, esatto, molto devoto al lavoro. Lo si vedeva molto poco, e quando io a 16 anni grosso modo, avevo già dei primi segnali di insicurezza, debolezza, diciamo soprattutto senso di inferiorità verso gli altri, mia madre, che invece era comunque tutto sommato era più presente in casa, se ne accorse e cominciò a chiedersi ma come mai questo ragazzo non esce mai, cioè escono tutti il pomeriggio, all'epoca si andava a ballare il pomeriggio in discoteca, vanno tutti a divertirsi e lui no. E cominciò a starmi vicino e si accorse lei per prima che c'era qualcosa che prima ancora del grande mare oscuro, ma insomma c'era un senso di sicurezza che non era normale alla mia età. Senti Federico, con grande trasparenza tu racconti anche di aver cercato di uscire da questo nodo che ti ti chiudeva la vita scoprendo l'alcol, scoprendo il piacere del bourbon. Esatto. Sì. Mentre altri magari scoprono il piacere di altro tipo di svaghi, la droga, eccetera. Per te l'alcol è stato un mezzo per rilassarti, allora, per ignorare il problema? Qual è stato la chiave? All'inizio, io sono sempre, venendo da una famiglia abruzzese, ho sempre amato il buon vino e la buona cucina, quindi non sono mai stato un astemio. Però la sera, magari quel bicchiere di bourbon, quei due bicchieri di bourbon con tanto ghiaccio, per un momento ti facevano dimenticare questo nodo in gola e quantomeno ti davano una rilassatezza mentale che prima non avevi. Il che nel libro che ho scritto, perché il barbo costa meno della analista, ma era la battuta per dire che a un certo momento, quando ti accorgi che un paio di barbo non ti fanno stare, quantomeno non ti fanno pensare per qualche ora, dici affezioni, oltretutto il barbo è pure buono, perciò uno dice vabbè, ho trovato lo svago di 2-3 ore, però chiaramente un palliativo, Maria, cioè ovvio che... Anzi, può diventare una nuova prigione, no? Sì, sì. Tu sei un giornalista appassionato di sport e lavori con la voce. Che cos'è che ti ha spinto invece a usare la parola scritta? Perché hai scritto questo libro? Guarda, è stato un caso in realtà, perché... una mia collega, che tuttora ringrazio, si chiama Nicoletta De Ponti, riceve un giorno una telefonata da una sua amica che si chiama Virginia, e questa sua amica gli chiede il mio contatto perché vorrebbe parlare con me per farmi scrivere un libro, perché mi conosce come speaker, cercano giovani sulla quarantina, per giovani autori per un progetto nuovo, mi contattano e gli dico di sì. Quindi nasce tutto anche con una componente di fortuna non indifferente, ecco. Grazie Federico Vespa per essere stato con noi a Nessuno è Perfetta. Nessuno è perfetta. E siccome all'inizio dell'anno, e come sapete, si fanno sempre un sacco di progetti, di propositi per i mesi che verranno, li facciamo anche qui a 2000, Nessuno è Perfetta versione 2020, e abbiamo ascoltato l'esperienza di chi, come Federico Vespa, l'anno scorso ha deciso di comunicare, di rendere pubblico quello che era stato il suo disagio tenuto per sé, diciamo, per molti anni. Ecco, magari per questo 2020 potremmo fare la stessa cosa anche noi, cioè decidere magari di affrontare un problema che abbiamo tenuto sotto il tappeto e di farlo con l'aiuto di persone amiche o di esperti, perché qualcosa che per esempio per le donne è difficile contemplare: chiedere aiuto è spesso il primo passo per risolverlo, un problema. Penso ai tanti casi, no, di mamme che con figli piccoli che non riescono per esempio a gestire delle sovrapposizioni tra il loro lavoro e il fatto di seguire i figli a scuola. Ebbene, chiedere aiuto, chiedere per esempio alle insegnanti dei figli se è possibile prevedere un tempo pieno, chiedere aiuto è il primo passo per risolvere i problemi. Se i problemi invece li teniamo lì congelati, sperando che si risolvano da soli, non sempre succede. E siccome all'inizio dell'anno uno può anche decidere di tirare da sotto il tappeto un problema che riguarda i suoi rapporti con un capo, i suoi rapporti sul luogo del lavoro, ebbene, la relazione tra il tema del malessere interiore, quello di cui avete sentito prima Federico Vespa ci ha raccontato, e il malessere che poi si esprime anche nel luogo del lavoro, ebbene, è il tema che abbiamo voluto affrontare con due esperti da due angolazioni diverse. Prima con Vito Ribaudo, direttore delle risorse umane di un grande gruppo editoriale RCS Media Group, e poi con la psicologa Umberta Telfener. Purtroppo si incontra nel corso della vita lavorativa C'è una fonte normativa precisa in Italia, che è un decreto del 2008, per dire come comunque già anche il legislatore si sia organizzato su questa materia, che ha addirittura una direttiva europea del 2004, quindi è un tema abbastanza recente, 20-25 anni, ma che ormai ha trovato una sua codifica anche normativa, e ne derivano anche degli obblighi per il datore di lavoro. Tendenzialmente sono obblighi legati alla prevenzione, in modo da evitare che poi si manifestino i casi che poi sfociano, per capire, il primo elemento da andare a vedere è la morbidità, l'assenteismo, perché quando subentra la depressione sul posto di lavoro, tendenzialmente poi il lavoratore ricorre al medico e quindi comincia tutto un carteggio tra direzione personale, direzione personale, medico e lavoratore. Naturalmente anche a me è capitato di incontrare dei casi quando si lavora in grandi aziende, anche semplicemente la numerosità, il tasso statistico, certo, di persone comporta che poi si imbatta in situazioni di persone. E in questo caso è il dipendente che viene dal direttore del personale e dice: ho scoperto di vivere uno stato di depressione, aiutatemi. Questo, che succede? Questo sarebbe già buono, perché significherebbe che il lavoratore ha preso coscienza del fenomeno e vuole cercare di trovare una soluzione concordata. Invece nella maggior parte dei casi l'azienda, la direzione delle risorse umane, si trova di fronte a un certificato o a un medico che segnala il caso di un dipendente che ha già compiuto una parte di percorso in autonomia, o meglio solo con qualche familiare o con il medico, e quindi mette l'azienda di fronte già a un fatto eclatante, a un fatto compiuto. A volte questo produce un cambio di mansioni. Se pensiamo a delle aziende pesanti dove c'è bisogno di fare lavori usuranti, in alcuni casi la depressione, l'assenteismo, la morbidità portano al fatto che poi non si possono più compiere determinate mansioni che possono essere anche faticose per il fisico. Quindi l'azienda si trova di fronte a un lavoratore che non può più svolgere quei compiti per i quali era stato assunto e per i quali era stipendiato per lavorare. Senta Ribaudo, qual è il consiglio che lei potrebbe dare a, per esempio, una nostra ascoltatrice che scopre, magari un'ascoltatrice che fa un lavoro, un tempo si sarebbe detto di concetto, no? Quindi cioè non un lavoro usurante, faticoso, ma un lavoro nel quale è necessario fare parte anche di una squadra, e che si accorge di avere i primi sintomi della depressione, perché c'è molto timore e a volte c'è anche vergogna. Con chi parlarne nell'azienda? Allora, gli interlocutori sono tre: il proprio responsabile, la direzione del personale e il medico, se è un'azienda di dimensione tale da avere una direzione sanitaria, altrimenti il proprio medico curante. Il primo gradino è quello sempre del responsabile, non fosse altro perché nel momento in cui si va a parlare con un medico o con la direzione del personale, poi loro hanno bisogno comunque di interagire con il responsabile diretto per capire che tipo di lavoro fa, quali sono i sintomi, che cosa è successo. Se ci sono, spesso nel mondo degli impiegati di concetto c'è questa, la sindrome nasce quando si ha una cosiddetta disfunzione organizzativa, cioè l'impiegato si trova costretto dall'organizzazione del lavoro micro o macro nella quale si trova ad operare, e si rende conto che ha un carico di lavoro, un carico di responsabilità che è superiore alla propria capacità, quindi va immagazzinando tutta una serie di malesseri che gli si inoculano esattamente come dei virus nel corpo, e quindi a questo punto poi ha un problema a fare l'output, cioè non riesce più a fare la performance, a realizzare, a lavorare, e quindi va in sovraccarico, in sovraccumulo, e quindi si rende conto che non è più partecipe di quel meccanismo organizzativo nel quale è inserito, e quindi bisogna capire con il capo come si può fare. E allora come le aziende si interfacciano con un dipendente che sta vivendo un momento difficile, un momento di depressione, quel male oscuro che spesso non si sa come acchiappare e spesso non si sa come riconoscere? Ce l'ha raccontato col suo punto di vista, ovviamente il punto di vista di un direttore delle risorse umane di un grande gruppo editoriale come RCS Media Group, ce l'ha raccontato Vito Ribaudo. Ma adesso andiamo a vedere come lo vede una tecnica, una psicologa, ed è con noi Umberta Telfener. nella depressione ci si cade dentro, come a un buco nero, e diventa una sorta di buco di egoismo, in cui ci sono a livello cognitivo dei pensieri negativi, del tipo non sono all'altezza, non sono capace, deluderò, mi sento costantemente inadeguato. E a livello invece relazionale, proprio una grossa paura di mettersi in gioco, una riduzione delle attività, un evitamento dell'incontro, che magari un mese prima non c'erano. Quindi, ma che cosa fa scattare la depressione? Può essere lo chiamano il male dell'anima, ma c'è una ragione, come dire, fisica, psichica? Allora, sicuramente c'è una ragione ormonale, ma c'è, ormai lo sappiamo, anche una storia. Per esempio, di solito le persone che si deprimono hanno subito una continua elaborazione di un senso di perdita, nel senso che molto spesso ai pazienti depressi noi troviamo la perdita di un genitore, oppure un non essere stati in grado di stabilire un rapporto emotivo stabile coi genitori, dei genitori che fuggivano alla relazione, oppure che li squalificavano, che li trattavano male. Abbiamo spesso violenze morali da parte di un genitore, oppure abbiamo persone che sono state loro i genitori dei loro genitori, cioè avevano dei genitori così incompetenti che hanno dovuto fargli loro da genitori. Quindi c'è una storia relazionale che fa sì che le persone che poi diventeranno depresse, avranno un senso di dipendenza, per quello che ho fatto il lapsus, dipendenza e rabbia. E a un certo punto questa cosa monta finché si cade in questo buco di egoismo e tutto cambia. Dalla depressione si guarisce però? Assolutamente sì, a volte coi farmaci, ma anche senza farmaci, acquisendo consapevolezza di quello che sta avvenendo e anche abituandosi a controllare la mente, cioè invece che essere controllati dalla mente, riuscire a in qualche modo fermare il dialogo interno, fermare degli errori di valutazione del reale. Grazie a Umberta Telfner, psicologa e psicoterapeuta, grazie per essere stata con noi questa domenica. Nessuna è perfetta. Beh, ragazzi, però è il 2020, non c'è mica soltanto da tenere presente i futuri eventuali, speriamo lontanissimi, problemi che si possano presentare. L'inizio dell'anno noi lo dobbiamo accogliere con l'energia, la speranza, la carica che si deve accompagnare sempre agli stati nascenti. E quando si parla di carica e di energia, beh, come non si può pensare al sorriso, spesso alla risata che ti trascina quando senti questa ragazza qui. Sì, è lovely, lovely, ci piace un sacco questa nostra Sunday Girl che vi riproponiamo, e lei è Pilar Fogliati. Prima di tutto un po' di te, perché cominciamo dall'adolescenza romana e da una particolare punizione che ti era stata inferta dai genitori, quale? Allora, io la mia adolescenza la ricordo come la tipica adolescente ragazza inquieta, con i capelli davanti alla faccia, incavolata, piena di dubbi, così. E quindi non andavo bene a scuola, ovviamente, e mia mamma, visti i tre debiti che prendevo ogni anno in ogni materia praticamente, mi ha detto: sai che cosa, dato che sentiva che mi piaceva comunque, insomma, la recitazione, il teatro, ha detto: io ti scrivo corso di teatro molto amatoriale, e da qui tu dici, vabbè, è una cosa bella. Il fatto che questo corso era il venerdì sera e il sabato sera. Carina la mamma. Carina, hai capito? Così mi obbligava a rimanere lì a fare una cosa bella, interessante, ma a rinunciare a tutte quelle specie di maratone che mi facevo per andare a mettere il piedino nei posti dove dovevo andare, che era l'unica cosa che contava in quel momento nella mia vita. Ma e dove andavi la sera prima del teatro? Dai, diccelo. Facevi i rave. Ma niente di che, ma andavo a farmi delle strusciate a Campo dei Fiori e mi sembrava di essere proprio nel place to be, no? Poi mi inventavo una scusa, capito? Prendevo un autobus e andavo in un'altra zona, molto più lontana, in una chiesa sconsacrata a fare questi corsi di teatro con un insegnante di lettere, quindi insomma era molto bella l'atmosfera ed era assolutamente amatoriale, cioè chi partecipava però, erano... La mamma di Pilar Fogliati era una donna super sveglia, super clever, perché non ha detto alla figlia no, non devi uscire, non devi andare a Campo dei Fiori, che per chi non è romano è il centro della movida romana, non sempre, come dire, consigliabile, ma ha avuto un'idea, ti faccio fare una cosa bella che ti piacerà, però la fai il venerdì sera e il sabato sera. Buon consiglio per tutte le mamme e tutti i papà, esatto, che ci stanno ascoltando. E quindi a volte da lì, può andare bene. E da lì hai scoperto una passione che altrimenti non avresti mai rivelato a te stessa. No, devo dire che era anche un sogno che custodivo un po' dentro di me, e non so perché dico vergognavo. Non so perché quando hai un sogno del genere sei un adolescente, sei una ragazza, non senti come se fosse, vuoi fare l'attrice, ma dove vai? Non lo so, era una cosa che tenevo nascosta. Poi invece, per fortuna, ho deciso di tentare come unica possibilità, mi sono andata a prova a entrare all'Accademia Silvio D'Amico a Roma, Accademia d'Arte Drammatica, e per fortuna ho rinunciato anche a tutta l'estate da diciottenne, da post maturità, per studiare, prepararmi, e sono entrata, quindi poi cioè sono diventata completamente un'altra persona. Ho avuto una crisi di identità, volevo fare la fricchettona, l'attrice, così. Ho conosciuto gente fuori sede, un'altra Roma che non conoscevo, e quindi sono stati 3 anni stupendi quelli in Accademia, e quindi insomma poi sono diventata una secchiona là dentro. Ed è un bellissimo percorso quello che ci stai raccontando, il percorso di una millennial che a 16 anni era in un modo, a 18-19 in un altro ancora, e poi frequentando una cosa serissima come l'Accademia d'Arte Drammatica di Roma ha trovato la sua strada. Lo dico perché tante mamme, tanti papà ci scrivono spesso perché sono disperati rispetto alla confusione dei loro figli adolescenti. Talvolta basta dare loro una opportunità. E quindi applausi, clap clap alla mamma di Pilar Fogliati che aveva astutamente trovato un sistema. Intanto per tenerla un po' al riparo dai rischi il venerdì sera e il sabato sera, e dall'altro trovare la sua strada. Tornando alle varie figure di giovane donna romana che tu hai così mirabilmente espresso nelle tue imitazioni, c'è la Pariolina, c'è l'aristocratica romana che mi ha divertito moltissimo, c'è la radical chic, c'è quella di Guidonia che, per carità, Guidonia è un posto meraviglioso, bellissimo, ma viene assunto come paradigmatico, diciamo, della Roma più non centrale. Allora, a tutte queste figure, Pilar Fogliati, a chi si sente più vicina? Io mi sento di rispondere che sono un mix di tutte e quattro. C'è qualcosa della nobilastra, come la chiamo io, c'è qualcosa della Pariolina, di quella di Ponte Milvio. Ho avuto un po' l'opportunità di conoscerle tutte come tipi di ragazze, e quindi dentro di me ognuna di loro ha una voce. Ho vissuto fuori Roma, vicino Guidonia, ho frequentato le scuole del centro, quindi frequentate da Radical Chic, ma anche da Pariolini, e quindi ognuna di loro, e secondo me tante altre, ci sono ancora tanti quartieri da riempire, quindi tante Pilar ancora a cui dar voce, e quindi mi sento di dire questo, che sono un po' un mix di entrambi, tutte e quattro. E invece come sono le trentenni oggi? Perché in pratica sia appunto nelle tue performance televisive che in queste imitazioni tu sei un po' un simbolo, no? di una millennial italiana. Noi ce ne occupiamo spesso, le raccontiamo con me molto in dubbio, per esempio, se avere dei figli o non avere dei figli, sposarsi o non... Ecco, come sono le millennial, se possiamo tentare una generalizzazione? Allora, se dobbiamo fare una generalizzazione, si può fare, secondo me, perché quello che hanno in comune tutte quante è ovviamente la mia generazione ha molta ansia del futuro, perché ha tantissima scelta, ha tantissima libertà e vive questa, diciamo, nuova malattia del momento che si chiama la FOMO, che è la paura di perdersi le cose, la paura di non essere sempre e di fare tutto, proprio perché possiamo fare tutto. E quindi secondo me questa è una cosa che le accomuna tutte, le ventenni di oggi. Anche le trentenni, no? O no? Secondo me, anche nel senso, secondo me c'è una sorta di post-adolescenza che dura fino ai 40, praticamente, nella mia generazione. Gaia Romani, che è qui con noi, annuisce. Annuisce, allora è vero. L'autrice annuisce. Allora, non so quanti anni ha, ma io sento questo, io ho tanti amici anche di 40 anni, di 20, non sento la differenza, siamo tutti, abbiamo così tanta libertà che ci sentiremmo porca miseria, posso fare tutto quello che voglio, ho la possibilità di fare figli, non fare figli, viaggiare, sposarmi, non sposarmi, che questa cosa ci mette in crisi in qualche modo, e quindi, oppure anche io posso, se voglio, posso fare l'attrice, un lavoro, no, diverso, bello, certo, instabile, e quindi questa cosa ci mette in crisi a noi ventenni, e poi questa paura appunto di... questo mondo globalizzato che fa in modo che noi possiamo toccarlo tutto, e allora se non lo tocchi tutto allora ti senti che stai sprecando del tempo. E l'autonomia finanziaria, l'indipendenza economica? Allora io, la mia generazione penso che sia nata abbia passato l'infanzia in un modo e poi di punto in bianco durante l'adolescenza ha ricevuto, diciamo, un po' una botta in qualche modo e quindi si è dovuta ridimensionare. E quindi è una cosa che vediamo così lontana, il fatto di essere indipendenti economicamente, che ci sono due modi di reagire: o c'hai l'ansia e provi in tutti i modi di trovare uno stipendio fisso e qualcosa, oppure dici, sai che c'è, allora mando tutto quel paese e vado a fare l'artista, viaggio e vivo la vita così. Quindi c'è molto il senso di appunto di viaggiare, di cambiare indirizzo di punto in bianco, di dire adesso vabbè, sai che c'è, cambio mestiere, vado a fare quello. E quindi è un po' una generazione difficile. Io, insomma, ho tante amiche della mia età e anche un po' di più, insomma, e sento questa cosa qua. Adesso tocca a te invece scegliere una delle quattro diverse romane per salutare le nostre ascoltatrici. Quali scegli? Allora, scelgo questa per salutare tutti quanti, vi ringrazio e abbiamo appena parlato appunto di ventenni. Io trovo tipo che la cosa importante secondo me è tornare alle tradizioni, più una cosa è tradizione è meglio, ma proprio vecchie, tipo tradizioni dei nonni, stare molto più presenti nel presente, non pensare sempre al futuro, alle cose, e poi viaggiare un sacco, andare a vedere il mondo, cioè non vi chiudete nella vostra stupida città, guardate tutto quanto, quindi cioè, apritevi, open mind sempre. Ma questo tu ce lo stai dicendo dalla tenuta di famiglia? Cioè, no, allora in questo momento sono a casa di mia cugina in Belgio perché abbiamo fatto una super cassa ieri, stancosissima, però super fighissima. Poi abbiamo fatto ovviamente il ringraziamento agli animali morti perché comunque appunto tradizioni. E prende un po' male, scusami, perché sono tipo all'aperto, bellissimo giardino tutto verde. Vi chiedo scusa, però spero che mi sentiate. È in Belgio, sei? Sì, in Belgio con questi... belgi fichissimi che ho conosciuto a una festa in Spagna e cerchiamo sempre di fare tipo una cosa che o una volta al mese ci vediamo tipo in Belgio, poi una volta al mese ci vediamo in Grecia. È tutto un gruppone di amici che sono la mia nuova family. Applausi a Pilar Fogliati, grazie, grazie, grazie per essere stata con noi. Nessuna è perfetta. Come ci raccontava Pilar Fogliati, da una punizione, da un contrasto magari con un genitore, può nascere una rivelazione. Io, lo sapete, sono sempre per il bicchiere mezzo pieno, e tanto più all'inizio dell'anno sono per il bicchiere mezzo pieno. Penso che da un contrasto, anche da una lite, da un conflitto interno a una famiglia, se si è abbastanza intelligenti e se ci si vuole bene, alla fine si può trovare qualcosa che diventa utile. A Pilar Fogliati è andata così. La madre, pur di non farla star fuori in giro per situazioni, lasciatemelo dire perché le conosco un po', pericolosette a Roma, le trovò da fare un corso di teatro, e da lì Pilar Fogliati ha scoperto la sua strada. Chissà che in questo 2020, care ascoltatrici e cari ascoltatori, non possa succedere la stessa cosa anche a voi e anche a noi. Ma siccome appunto è l'inizio dell'anno, io sono ottimista di natura e tanto più lo sono nel 2020, una storia bella, positiva, che ci fa credere non soltanto nel riconoscimento del merito, ma anche nel fatto che si può partire da un piccolo centro di provincia ed arrivare ai vertici di una grande azienda come l'Agenzia Spaziale Europea. Ebbene, la storia di Ersilia Vaudo Scarpetta, oggi Chief Diversity Officer dell'ESA, è una storia che ci piace proprio tanto. La sentiamo insieme. Innanzitutto, effettivamente l'Agenzia Spaziale Europea, mentre presenta una grande diversità culturale, in fondo noi sappiamo in che modo la sinergia di talenti, di prospettive diverse riesce a farci fare cose che da soli non sapremmo fare, e quindi atterrare su una cometa a 500 milioni di chilometri da qui o fotografare l'inizio dell'universo. In termini di invece diversità gender siamo ancora abbastanza indietro, e questo perché comunque c'è un interesse minore da parte delle ragazze rispetto a queste materie. Io personalmente devo dire, ho sempre coltivato una passione per la scienza e quindi in qualche modo una curiosità che mi ha spinto, insomma, a mettermi in gioco rispetto a delle materie che venivano già, diciamo, considerate comunque maschili, difficili. Sono stata sicuramente aiutata da un ambiente molto, diciamo, particolare. Ora ci arriviamo. Sì. Prima vediamo di raccontare brevemente che cosa fa l'Agenzia Spaziale Europea e dove è basata, perché non tutti la conoscono. Certo, allora l'Agenzia Spaziale Europea un'agenzia internazionale, e abbiamo 22 stati membri, quindi 22 stati europei non necessariamente coincidenti con paesi dell'Unione Europea, abbiamo infatti anche la Svizzera e la Norvegia, e siamo in qualche modo la piattaforma programmi spaziali per l'Europa. Facciamo molte più cose della NASA, perché facciamo anche telecomunicazione, facciamo dei programmi, i lanciatori, cosa che appunto la NASA non fa, e quindi copriamo un po' tutti i settori. La vostra base dov'è? In quale città europea? La base amministrativa strategica è a Parigi, dove abbiamo anche il direttore generale. Il nostro centro, diciamo, più tra virgolette spaziale è invece in Olanda, dove abbiamo delle anche dei test center che sono straordinari. Noi riusciamo per esempio a simulare la temperatura del sole, perché abbiamo quando mandiamo dei satelliti, come abbiamo appena mandato un anno fa Baby Colombo, che questo satellite che è partito e che fra 7 anni andrà a studiare Mercurio è molto vicino al Sole, dobbiamo essere sicuri che il satellite è in grado di gestire questi sbalzi di temperatura tra i 500 gradi e i meno 200 gradi, e quindi simuliamo queste cose in questi laboratori che abbiamo in Olanda. In Olanda. Oppure simuliamo dei terremoti, perché comunque le vibrazioni a cui sono posti i satelliti, quindi sono, è un centro dove si respira lo spazio. E il nostro... lei dice, e poi avete, mi scusi, l'ho interrotto. E poi abbiamo il centro da cui controlliamo i satelliti, che invece è in Germania, e in Italia, a Frascati, abbiamo il nostro centro di osservazione della Terra, dove prendiamo i dati che ci vengono dai satelliti, inclusi i satelliti di Copernicus, che è un programma con la Commissione. Senta, dottoressa Vaudo, ogni tanto noi leggiamo che i miliardari, i super miliardari americani, per esempio Elon Musk, investono perché pensano che il futuro sia andare a vivere su Marte, no? Uno immagina, come nel film Elysium, che i super ricchi del mondo tra 40 anni e 50 anni si trasferiranno tutti su un pianeta che diventerà il giardino del mondo e lasceranno solo noi poveracci sulla Terra. Quanto è vero di questa, diciamo, proiezione? Perché Elon Musk punta così tanto allora, su Marte? Diciamo che è vero che mentre prima la corsa spaziale era una corsa tra nazioni, quindi per un prestigio, per una supremazia, quindi insomma, sappiamo bene come la guerra fredda abbia in qualche modo, diciamo, abbia rappresentato un grosso motore per l'esplorazione spaziale, oggi questa competizione è anche una competizione tra miliardari, quindi effettivamente abbiamo Elon Musk, Bezos con Amazon, ma anche Branson, quindi tutti attirati non solo appunto dal prestigio. In fondo io penso che lo spazio e lo sport sono forse due palcoscenici globali dove uno veramente può dire sono più bravo di te, quindi c'è un'attrazione verso le sfide diciamo in campo spaziale. Allo stesso tempo c'è anche la consapevolezza che in ballo ci sono anche grandi interessi economici, ormai, cioè, mentre prima nel passato gli investimenti nello spazio hanno sempre avuto motivazioni strategiche e scientifiche, ormai sappiamo che è una struttura, un'infrastruttura imprescindibile con un grosso potenziale economico. Qual è il grosso potenziale economico? Ci faccia capire. Sì, allora diciamo che in assoluto i servizi che possono essere generati dall'investimento dello spazio sono tra un fattore, per un euro nello spazio riotteniamo nell'economia tra 5 e 7 euro rispetto ai servizi. Pensiamo solo a tutti i servizi legati a Galileo, che è il GPS europeo, o all'utilizzazione dei dati appunto da Copernicus, che è questo sistema di satelliti di osservazione della Terra, che è il più grande database di dati per l'osservazione. Ecco, quindi mi permetta di interromperla e di ritornare un po' alla sua storia parlando alle mamme e ai papà che ci ascoltano. Pensate, cari ascoltatori, quanto è importante per la vostra bambina, che magari ora ha 10 anni, studiare e avere magari una carriera scientifica, perché su questo fronte il lavoro non mancherà. E ora veniamo a lei, Ersilia. Lei intanto dove è cresciuta, che cosa ha studiato e perché ci stava dicendo che è cresciuta in un ambiente che l'ha aiutata a intraprendere una carriera scientifica? Allora, io vengo da una piccola cittadina sul mare del sud, diciamo tra Roma e Napoli. E come si chiama questa piccola? Si chiama Gaeta. Beh, la conosco bene, io sono Isabaudia. Ah, benissimo. Quindi ho avuto sicuramente un'infanzia libera, un'infanzia di giochi sulla spiaggia, bicicletta, ginocchia sbucciate, mio padre navigava. Mia madre era invece una donna di scienza, quindi una chimica, biologa, soprattutto molto appassionata di matematica, e infatti una cosa che ricordo sempre della mia infanzia è che mia madre sui barattoli in cucina, il sale, zucchero, bicarbonato, eccetera, metteva le formule chimiche, ovviamente con una serie di pasticci che uno faceva scambiando il bicarbonato con lo zucchero a velo. Però ho sempre avuto un ambiente, diciamo, di per sé portato alla curiosità, quindi allo stimolo a farsi domande, a cercare risposte, che quindi in qualche modo faceva veramente parte di me e fa ancora parte di me. Quando ho dovuto decidere cosa studiare, questo è un messaggio che io cerco di passare moltissimo alle ragazze, dico che la scienza dà superpoteri. Quando dovevo decidere cosa studiare, ero comunque una diciottenne tormentata, molto interessata alla letteratura, alla poesia, comunque andavo bene in matematica, però diciamo il mio cuore andava più in quella direzione, temevo che scegliere di fare della filosofia un percorso lavorativo mi avrebbe comunque tenuta un po' troppo, mi avrebbe tenuto stretta le mie domande esistenziali e avevo invece voglia di spostare il baricentro, tirarlo fuori da me, lasciarlo vagare, metterlo in una dimensione comunque lontana, anche difficile in qualche modo, intellettualmente difficile. Quindi ho deciso di fare fisica a Roma e devo dire, posso anche spiegare perché studiare fisica è un'esperienza che trasforma. Siamo costretti a uscire fuori dalla zona di conforto della nostra esperienza, dove la mela ti cade in testa e se tiri una palla quella va su e poi viene giù. Cioè entrare nel mondo della relatività generale, entrare nel mondo della meccanica quantistica, dove il tempo rallenta a causa della gravità, dove guardare indietro, guardare lontano, anche guardando il cielo di notte, significa guardare indietro nel tempo, sono delle enormi emozioni che ci trasformano, perché in qualche modo si comprende che l'impossibile è comunque un punto di vista. Affascinante questa spiegazione. E dunque aver fatto fisica poi ha aperto la strada a una carriera internazionale. Abbiamo ancora solo un minuto. Sì. Ci dice come è arrivata all'Agenzia Spaziale Europea? C'era un concorso europeo? Come è successo? Allora, le dico la verità, io avevo il fidanzato a Parigi. Allora, innanzitutto, facendo astrofisica, comunque l'ESA è un punto di arrivo, quindi il the place to be, quindi è un luogo di eccellenza tecnica, e quindi in qualche modo ce l'abbiamo già, anzi le ragazze italiane sono quelle che fanno più domande all'ESA, perché abbiamo anche una cultura spaziale molto forte di collaborazione. Però avevo il fidanzato a Parigi, volevo comunque stare con lui, e invece di fare domanda in Olanda, dove sarebbe stato forse più naturale, ho fatto domanda a Parigi. Ed è successa una cosa, questo è anche un messaggio che ci tengo a passare alle ragazze: non bisogna mai sottrarsi alle occasioni anche quando sembrano impossibili. Ho fatto un'intervista, sono andata bene, ma a un certo punto il capo mi dice quello che mi avrebbe assunto. Cosa farebbe se ricevesse un ordine per cui non è d'accordo? Io gli risposi: guardi, ho appena comprato Schopenhauer, l'arte di avere sempre ragione. Lui mi rispose: l'ho appena comprato anch'io, comincia il mese prossimo. Quindi ci sono delle cose nella vita che in qualche modo si... Delle costellazioni che si allineano e che sono sì. Insomma, bisogna anche aiutarle, però se lei non avesse avuto la curiosità di comprare Schopenhauer, magari tutto questo non sarebbe successo. E insomma, allora, buon anno, buon inizio di 2020, un sacco di cose belle, da nessuna è perfetta. Mandateci i vostri messaggi vocali o WhatsApp, come vi pare, ma all'828 12 12 aspetta solo voi, stagasa spietta te. Noi ci sentiamo ovviamente domenica prossima alle 10 su Radio 24, e se per caso vi va di seguirci anche domani mattina, io torno con Simone Spezia alle 8 e 20 e vi aspetto. Ciao, buona domenica.